approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, sono le risorse da destinato al contributo, quindi all'aumento del netto in busta paga. Inoltre l'abitazione principale è... Non ci ha abbandonato, carissimo. Io non abbandono mai a nessuno. Capito, Gianfra? È che non avevo voglia di entrare in questi giorni. Ah, sono contento che sei rientrato, dai. E allora, cosa mi racconti? Il segnale è più forte, è possibile? No, perché mi si è azzerata l'antenna praticamente delle stazionarie, capito? Io pensavo che avevi approfittato delle giornate per mettere tutto nuovo, il tempo ideale. No, si è abbassata delle stazionarie, c'ho uno e due, c'ho. Va bene allora. Ciao, va bene. Mi è arrivata l'altra antenna oggi. L'altra cos'era? Una X? Sì. 50? No, 30. Ah, quella piccolina, sì. Già da c'era, ce n'è avanti. Adesso cosa c'è l'antenna? Una di macchina? No, adesso c'è il ricevitore, ci ho attaccato quella che ho costruito io. Magari più potente, cioè più efficiente. Ma vediamo. Le fa un bel braccio. In modo da tenerla un po' lontano dal palo. Io ho già comprato il materiale per farla. È una... insomma, un po' lunghetta, robusta. Se la metti nel palo, devi essere tranquillo che non dà fastidio. In questo tempo sta facendo un sacco di danni, sta corrodendo connettori, tutto. Io non ho potuto fare anche la manutenzione dei dipoli che ogni tanto va fatta. D'altronde, dice che peggiora ancora, non c'è mai fine. Sì, un macello. Dice che un amico se gli è troncata la Game Master. Ma guarda, la mia non c'ha tiranti, c'è stata una tromba d'aria quando era avanti ieri, che l'ha piegata, ma piegata sul serio. Infatti il tubo è un po' storto addirittura, ma non si è fatta niente. Quindi o la piazzano male, sicuramente la piazzano male, c'è un sacco di gente che vedo delle antenne piazzate da mettersi le mani in testa, proprio fatte per rompersi. E poi, ripeto, ognuno fa come vuole. E infatti è strano che se li sia spezzata l'antenna, in due, dice. Se venivano dove c'era veramente vento, dove riesce a piegare, a me mi ha piegato anche un tubo d'almine, figurati che cosa scatena a volte qua. E ieri a momenti, quando c'era il vento forte, non potevo uscire, perché si buttava a terra, quindi figurati. È riuscito a sfondarmi una tettoia di quella in plastica, l'ha proprio sfondata, quindi da sostituire. Insomma, ha combinato di tutto di più, però le antenne sono ancora lì perché sono piazzate bene, è tutto il problema. E tra poco sentiremo anche... Chissà come ha fatto, o era già lesionata questa antenna, già due volte se gli è rotta. Ma di chi stiamo parlando? Lo conosco. Ehi Gianni. Io non so se fosse sua con l'antenna, che non mi ricordo neanche dove abita, però scendendo da via come si chiama la via? C'è presente il viadotto, tiri dritto e poi vai verso Sassari 2 e scendi, c'è quel discesone panoramico bello, Dico che sta un palazzo grigio alto, questa antenna, che non so se fosse una rimasta o cosa fosse, però molto furbescamente ci hanno messo i tiranti a metà antenna, un quarto d'antenna, eccetera. È chiaro che il carico non è più distribuito, il carico va da tutte le parti, quindi quello che trova spezza. No, io tiranti non ne metto, li metto solo nel palo e boom. Eh beh sì, è un'antenna che deve essere flessibile, perché loro dicono anche di metterli tiranti, però evidentemente lo dicono per in modo che si spieghi, cosa vuoi che ti dica. Io le antenne in vetrosese non ne ho qua, ho tutte quelle UHF, VHF, di tutti i tipi e generi, quasi tutte le misure. C'è anche la direttiva che è addirittura fatta con tubo elettrico, quello per canalette, non quello grosso. Di spezzarsi non si è mai spezzato niente. Le sento solo in 27 queste cose. Se vi parli che si rompono i connettori, perché il cavo è pesante, fa trazione e viene sbattuto in continuazione, allora è un conto, ma dalla struttura in vetroresina a voi, quelle sono colorate per 120, 130, 160 km all'ora. Sì, infatti c'è un trabù, è strano che questa antenna ci sia spezzata. Ma io la piazzo senza né tiranti né niente. Questi brutti patti mi dispiace molto che i tiranti li metto per non ondeggiare il palo e basta. C'è stata una mala gestione di questi. Ah, se la metti a 3 metri, 4 metri di tubo. E sotto, anche se più in basso ci metti l'altra, boh, basta, chiuso. L'importante è che sia un pochettino più alta di quella della TV. Questi cani vanno in qualche modo educati. Adesso aspettiamo che venga un po' di bel tempo e la piazzerò. Il ragazzo, il nipote. Già ne hanno venduto di antenne. Non è che sia l'unica. Ne hanno venduto tante, ma senti solo quelle due o tre persone che li si è spezzato. Vabbè, ecco che ci si elabora, se fosse la Trieste praticamente antenne non se ne possono vendere. Cosa ti volevo dire? Anche uno vicino qua, beh, va la rimasta e se gli è rotta stesso. A Salvatore mio, che quello è radioamatore pure, e dice che se gli è rotta. Boh. A me queste cose non sono mai successe. Avevo sempre messe come se devo mettere le antenne e con molta cura, però sempre soprattutto alte, perché da me il problema non è un'antenna, è il tubo, capito? Poi se è chiaro, se viene una tromba d'aria come quella che hanno fatto vedere oggi al telegiornale, si porta via l'antenna, il tubo e anche il traliccio se ce l'hai, oltre al tetto. A me una volta mi ha segato il tubo dell'antenna, della mantova, l'ho trovata appoggiata sul tetto, meno male ce l'avevo ritirata. E l'antenna non si è fatta niente, sembrava tagliata a seghetto. Perché quando è forte è forte, sui occhi che a me mi ha, è riuscito a piegare, guarda che razza di forza c'era questo cavolo di vento, è riuscito a piegarmi un tubo di quelli acciaio grosso, marcegaglia, l'avevo pagato un pacco di soldi, era la prolunga finale di un'antenna sempre in vetrodesina, me l'ha piegato. E una volta che si piegano quelli in acciaio, come fa ad alzarli? Neanche a balla. Infatti, ma cosa vuoi dire? Nonna magari ha fatto un gesto, magari. Io seguo le indicazioni che ci sono scritte nel manuale e la piatto così. Ah, infatti. Infatti. Poi. È così. E quelli riuscirebbero, io ho un'antenna qua che è navale, no? Molto molto grossa, fatta per rimanere in mare, e io penso che se deve piazzare quell'antenna lì che è per HF, quelli riuscirebbero a far spezzare anche quella. Cosa vuoi che ti dica? Ma vediamo un po' cosa succede. Io sono nelle giunture, metto il nastro vulcanizzante e basta, non metto altro. Assolutamente sì. Quello deve essere ben sigillato in modo che non entri niente. E così farò. Ancora la nonna. E poi vediamo. Può essere davvero stato questo episodio del giorno prima? Ma che hanno stretto troppo i morsetti e l'hanno lesionata questa antenna, io penso. Quei morsetti che ci sono nelle giunture, perché dice di non stringerli a morte. Quelli sono punti deboli, perché c'è gente che va a stringere con le chiavi in maniera allucinante. Deve stringere solo il tanto che basta per comprimere la guarnizione, perché dentro c'è anche la guarnizione in gomma. Figura, che vuoi che ti dica? Non lo so. Non sento a Giulio, ma sta bene, sì, c'ha altri impegni. Ma a dire la verità non lo so, anch'io sono da molto che non lo sento. Vivere con l'uomo e questo. Ma speriamo che stia andando tutto bene, che non sia per altri problemi, che sia impegnato in altro. E infatti, che comunque hanno volte sanno gestire tutti i musicali. Speriamo che vada tutto bene. Non voglio più, non c'era, diciamo che sono un po' di giorni che non lo sento. Con amore o cazzo. Va bene. Se la vuoi utilizzare, ricordate che con l'antenna è chiusa in banda, quindi c'è un arco di ascolto che va dai 20 ai 30, 35 al massimo come ascolto. La trasmissione invece va da 25 a circa 30 e spiccioli. E quale? La Game Master? Sì, perché molti sono convinti di poter ascoltare le HF, ma l'antenna è fatta così, proprio soggettualmente è fatta così. E intanto ho preso la corda anche per mettere una carrucola, così ci salvo un dipolo per le HF, capito? Una cosa è piazzata l'antenna. La corda è sempre utile, la fissi bene in modo che non faccia rumore e si accavalla. Sì, infatti Alberto gran concerto Gianfra, per l'HF metterò un dipolo, i 28 già li ascolto con questa qui che stiamo ascoltando, figurati. Quelle di sotto e mettere un dipolo e vediamo come si ascolta. Con questo l'ho ascoltato anche sui 40, magari di quelli 0,30 per aiutarti, e così ti regola un pochino anche la ricezione, tanto devi trasmettere. Ma di quelli, come si chiamano, non mi viene, di 300 o di 200, quelli rossi. No, capito, sta un po' la radio, Gianfra, è bassa. Bassa, e papà si abbassa, mi sta tutto l'aumento, com'era? Ecco qua, ecco, l'ho aumentata, però è probabile che magari c'è vicino qualche apparecchio, perché si sente molto anche quando parli tu. Ti sto dicendo di procurarti un T di quelli rossi, la ricezione migliora di parecchio per il dipolo, così ti eviti anche rientri RF, fa un ballo di lì, un 1-1, e ce ne avanza. Un toroide stai dicendo? Un toroide, sì, T200, se non ricordo male. Dopo lo busco. Italia divisa in due all'ordine, con qua cosa c'hanno Natali? Oramai dimenticatelo, stati per comprare queste cose. Magari c'hanno i cinesi, tra poco se sapessero che facessero affari prendendo roba di quel genere, probabilmente in due giorni ce li avrebbero, guarda. Sì. Adesso lo cercherò in internet, se lo trovo, un T200. Infatti. Non dovrebbe costare molto. Probabilmente ce ne hanno anche su Amazon quegli affari lì. Però adesso sto... praticamente stiamo facendo una cosa che non serve a niente. E niente, se volete lo cerco T200, so che qua te ne danno 10-15, boh. Mi metto a fare centrali per antenne e me li vendo. Dottoro Idami, don T200 barra 2, costa 10 euro, 10,62 euro, però la spedizione è cara, 9 euro. Poi c'è questo che è grosso addirittura, questa è spedizione gratuita, Ting B, un pezzo ferro, però non so quanto, che frequenza copra. Ting GB, 6,59 euro, spedizione gratuita. Vediamo un po' cosa dice. Se no ti prendi direttamente un ballo, un 1-1, e non devi neanche costruire. Qua ce n'è uno, dico, di 1-9, per antenna onde corte, costa neanche 20 euro. Ballo 1-1 devo cercare. Quello ti devi regolare, dipende dalla lunghezza dell'antenna che devi fare. Non pretendo di arrivare agli 80, 40, 20, capito? Allora. Vedi un po', ci sono tanti progettini su internet, anche su YouTube li vedi. Questo TIN GB1 non lo conosco, è rosso, però non ha magnetismo, però non so quale possa essere il suo utilizzo. Oggi sta facendo freddo e nei prossimi giorni peggiora ulteriormente. È strano che ancora però non ho visto la neve a Usilo. Qui ci mette poco a farla la neve. Sì. Diamond View 50, ballo 1-1 per antenne filari, 32 euro, solo per la spedizione per costa cara. Poi ci sono questi, 1-1, 15,99 euro, la spedizione gratuita, che poi è facile mi farli, però se uno vuole già tutto completo dei connettori. Peccato sarebbe per le scariche, mi Natali, capito? Oltre per avere un pochettino più di margine, perché se fa il dipolo aperto di norma va molto bene, però è anche vero che essendo aperto i vari bracci ti portano dentro le scarichette. Io capito. Io adesso lo adesso voglio farvi vedere un documento molto importante, perché abbiamo detto in apertura che si fa... Se il caso lo faccio io, se busco il droide. Il killer, che purtroppo è il professore... Gli faccio una scatolina di quelle strane. Passionale. E ce lo schiaffo dentro. Un'altra ipotesi. Ma è quella di Bricco, quella per impianti elettrici. Che sono stagne. Adesso lo cerco qua su internet. Proprio. Di Bano ce ne sono tanti anche da Media Globe a prezzi ragionevoli, sono già sigillati, quindi non devi neanche fare fatica. Tanto a te quelli entro il range di oltre 1000 non ti interessano, oltre 1000 watt. Ma se lo devo usare solo per ascolto. Appunto. Ai, ai, ai. Oggi che è casa 17:36, siamo soli soliti, la gente oramai sta entrando alla via di cena. Sì, saranno impegnati. Ah, io cosa devo fare? Devo provare una cosa. Sono dimenticato. Vabbè, Natali, rimango un attimino di qua, perché dovevo provare una funzione particolare, ma me la sono ricordata adesso. Fai intanto, io vedo questo bar. Ok. Stiamo cambiando e stiamo per uscire tra un po', almeno fine settimana, e poi domenica devo scendere a Olbia perché arriva la figlia di Marina. Dobbiamo scendere alle 8, dobbiamo partire da qua perché arriva alle 9 l'aereo, 9:15. Mamma mia, uscendo, anche altri giorni da lì, per carità, sono 8 gradi fuori, siamo in macchina, allora una volta scendiamo dalla macchina e andiamo dove dobbiamo andare, capito? Mica stiamo fuori, e poi dobbiamo inibire. Poi quando te ne devi andare, ti metti giù un botto, ti siedi in macchina e te ne vai a casa, poi arrivi a casa, te ne scendi dalla macchina e vai a casa. E poi scendi dalla macchina e te ne vai a letto. Vabbè. No. Assolutamente. Comunque qua ci sta bene, sono maniche corte, c'è anche caldo, la stufa è a 1, perché questo pellet è micidiale, se scalda in una maniera luce non ci può stare vicino alla stufa, non ci puoi stare, da quanto scalda, poi fa poca puligine, è buono quel pellet, poi scalda veramente bene. Spero che stia prendendo abbette, quello che abbette e faggio sono quelli che stanno andando a forte, scaldano un bel generando fratello le vende, quindi va detto lui, faggio e abbette sono quelli che scaldano di più, la farà è pulita, fa poca cenere, ma soprattutto scalda un bel. No, questo è diabete. Ah, diabete, mi arrangerò bene. Già va bene. Diabete al catalogo di Google maglietta. Minchia, 24 gradi diciamo. Fra poco siamo a 25. Per carità. Non c'ho niente acceso, mi dice. E grazie, stand by, ogni tanto lo accendo. 140 al 430, le due lì. Non grazie, lo vedete tutto trovato. Vabbè, se c'è caldo, c'è caldo. Sì, claro, io posso insulina, siamo tutti cazzi. Quello che è già forte, diabete è già forte. Forte, forte, forte. Quello che scalda più di tutti. Si conferma, si conferma. Quindi andate in pizzeria. No, io ormai a casa. Mi l'aria ha staccato un pochino, adesso va verso le 8. E poi si fa la chiusura, boh, le 11, mezzanotte, non lo so. Andavamo a mangiarci una pizza, ma mi rimango a casa, è troppo freddo, non aggiungo una ricetta. Sì, comunque abete, puro abete, sì, sì. Costa 5,50 euro, che quasi. 5,60 euro, stai prendendo quello buono, 5,60 euro, l'abete premium. Buonissimo quello, quello bianco, bello, sì. Scalda un bel, mette le pezze, la stufa, la... $5.25 No, non so qual è la frequenza. 145 787.5. Ok. Arrivi bene qua, Arrivo bene. Alla grande, anche Marco. Però a casa non arrivi bene, in 5.25. Io non ho capito qua, poi quando finisci con Marco, là, tranquillo. Ah, attenzione Gargamella, mi ascolti? Vabbè, io sto chiudendo qua, là. Salutami a Marco e ci sentiamo domani. Ciao, sto uscendo. Via, grazie, ci sentiamo. Via, già ho copiato tutto, grazie Cla, ciao. Ciao Lugarie, già ti ha salutato Marco. Roby, sì, sei tu? Sì, sono io, e beh già fa. Sì, allora, home service. Ti volevo dire che stamattina ho trovato quella porta seriale, ce l'aveva coso, Matteo lo conosci? Sono andato da Matteo, ma non l'aveva, stava l'unico che ne ha capito qualcosa. No, invece ce l'aveva, è lui che è rincoglionito, cosa non ne aveva, chissà tu cosa l'hai chiesto. Matteo sapeva solo, conosce solo le porte HDMI e compagnia cantante, invece io con tanta pazienza gli ho spiegato, guarda che le porte seriali hanno 6 pin, sono di quel colore, le vostre si chiamano H-340, insomma le ho smontate il negozio e le ho trovate. Ah scusa, stavo parlando Matteo, quello vicino alla piazzetta, quello lì sta dicendo. Mi sa che c'è solo lui, vicino alla piazzetta a fianco al gommista. Ehi, io sono andato col cavo che mi hai dato tu, proprio per non sbagliare, mi devi dare una cosa uguale a quella, entri così ed esca così. No, ce l'avevamo ma non è, mi ha fatto vedere un'altra cosa, al contrario non ne ha trovato però. No, mi sto in faccia, non te ho potuto dare, no che già ce li ha, costa 5 euro, costa, e per di più, contrariamente, infatti io ho detto, guarda che se non funziona, vengo e ti strozzo con questo cavo, no, non ti preoccupare, sono andato, infatti l'ho collegato e ha funzionato anche questo, no? Al primo colpo con Windows 10, capito? Poco rincoglionito con l'uomo anche lui, poverino, che siamo a Tiania. Ma scusa, tu hai parlato col cinese o col ragazzo che c'ha la mano meno matta? No, ho parlato con Matteo prima. Lui mi ha indicato più o meno cosa poteva fare, io gli ho spiegato bene cos'era, in cinese direttamente. E allora ho detto, ah, io forse questa sì bravo, visto che capisco. Vabbè, tu hai parlato in cinese, io non riesco a spiegarlo perché mi facevo agirsi il coso dei muti, faccio i sordomuti, e mi ha passato a parlare a quello là, ha detto chiedi a quello là, a quello con la mano che c'ha un po' meno matta, e ha cercato in mezzo alla roba, mi questa no, quella, ma questa al contrario, deve essere, no, in che cosa era? Vicino a dove c'è la roba, all'ingresso a sinistra o in fondo bu dove c'è il mondo estraio? Allora, all'ingresso a sinistra, subito dopo, lo scaffale subito dopo, anzi no, diciamo che gli scaffali sono unici, no, praticamente, hanno un davanti e indietro, questo era dietro il primo scaffale, il primo scaffale sarebbe dove ci sono gli accendini, ce l'hai presente? Sì, lo conosco bene quello lì, ma ce n'era una solo o ce n'erano diversi? No, ce n'era diversi, se vuoi ti leggo anche quello che c'è scritto sulla busta, così la identifichi. No, per capire, abbiamo cercato da tutte le parti, forse c'è qualcosa qua, dove strano. Comunque, cambiando discorso, Gianfra, grazie che hai trovato, appunto ci mettiamo d'accordo. Io adesso sto accendendo con la B, ho inserito quella pennina famosa, RTL, eccetera, eccetera. Ho impostato la frequenza, mi fa vedere il segnale, ma non riesco a modificare l'audio, non si capisce niente perché se l'ho impostato. Da dove devo agire per entrare sull'audio? Dalla LC. Aspetta un attimo perché però non vorrei fare casino qua perché stavo programmando una radio che mi sta veramente dando fastidio. Io sono in sta cazzo adesso, non era l'altra, come non detto. E non vorrei che ci fossero rientri, ma sempre stare attenti a questa cosa, quando si trasmette, mamma mia, che rottura. Ecco qua. C'ho due programmi che ti devo dare. Però non riesco a decodificare l'audio, cioè sono a 100, vabbè che sono leggermente sottato a 101, 87, sto mettendo RDS che è quella più forte di tutti, arriva a bomba, però non riesco a decodificare l'audio, non è che devo entrare dove c'è scritto soundboard, però qua ce ne sono RTL SCR, quelle che sono tutte le pennine, però non devo fare niente. Probabilmente sta andando in saturazione, per quello che non senti niente. E niente, ascolta, se ti colleghi ti scarico due programmi, di cui uno è il DAB, che serve per ascoltare il DAB. Assolutamente sì, no, non è saturazione, è sento tutto nel senso quando non hai i filtri giusti, diciamo, troppo largo, troppo stretto, perché qua è impostato a 9, adesso neanche lo vedo. Ho messo un monitor più grande, l'altro un tipo oggi, bello luminoso, della Samsung, non c'è bisogno neanche di coso, di HDMI, perché c'ha tutti gli ingressi, c'ha anche l'ingresso VGA, per cui non ho fatto nient'altro che sostituire l'altro e attaccare il VGA. Meglio così. Facciamo, ci colleghiamo così ti descarico questi cosi prima che me ne dimentichi di nuovo, che ce l'ho da un po' di tempo e non me ne faccio niente. Non mi chiedo neanche questo, intanto ve ne è una. Oh yeah, vabbè. Il viewer è attivo, aspetta un secondino, andiamocene sull'uno Gianfra però. Sì, confermo, esecutivo. CQ10? Attenzione Eugenio, canale 10. CQ10? Sì, buonasera. C'è nessuno? Cambio. Capito Sgascia? Franco Sassari, cambio, ci sei? Niente, ciao a tutti, anche quelli che stanno in ascolto non voglio rispondere. Ciao, buonanotte.